versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:37 primi, qui in diretta dallo studio di Radio 24 di Roma, oggi non di Milano. E vado al punto per vedere se volete chiamarci al 800 24 00 24. La domanda per voi non è su questa la trasmissione, però parleremo comunque di elezioni europee, è questa. Ieri sera, chi di voi ha visto Grillo, chi di voi ha visto Berlusconi, chi di voi ha visto Renzi e soprattutto che cosa ne pensate dopo averli visti? Chiamateci per dircelo, qualunque sia la vostra opinione, 800 24 00 24. Noi, come avevo detto, fino al voto europeo qui non invitiamo politici italiani, non per rinunciare alla par condicio, ma perché ci sono tutte le trasmissioni. E invece di qui al voto ci occuperemo in due puntate, oggi una, un'altra nei prossimi giorni, prima di votare, di che cosa è probabile che accada, molto a sorpresa, e vediamo con quali conseguenze, in altri grandi paesi europei, perché non c'è solo un voto atteso in crescita, secondo me, i sondaggi qua sono proibiti rispetto alle politiche dei 5 Stelle, ma il problema è che in Francia, Gran Bretagna, in Grecia, in Olanda, a queste elezioni europee ci si attende oramai, è molto probabile, una fortissima affermazione di partiti di coloritura diversa, che provengono da famiglie politiche diverse, ma insomma uniti nel nazionalismo molto forte, nell'antieuropeismo molto forte, nell'essere contrari all'euro e per l'uscita dall'euro. E quindi oggi iniziamo ad approfondire la situazione attuale in due paesi. In questa prima parte ci occupiamo della Francia, poi dopo l'interruzione con il traffico ci occupiamo della Gran Bretagna. E per parlare della Francia è con noi il corrispondente di Le Monde all'Italia, Philippe Ridé. Grazie di essere con noi, Philippe. Grazie a te. Allora, i sondaggi in Francia, che leggiamo tutti i giorni, dicono che il fronte nazionale di Madame Le Pen è in vantaggio rispetto all'UMP. Si sono, per così dire, stati vicinissimi, ma l'UMP era in vantaggio fino a qualche giorno fa. L'UMP è il partito di centrodestra che era guidato da Sarkozy, staccatissimi al terzo posto invece i socialisti, quindi un problema grandissimo per il presidente Hollande se davvero finisce così. I sondaggi confermano questa tendenza, cioè il Fronte Nazionale sarà il primo partito? Sotto gli occhi l'ultimo sondaggio che Le Monde ha pubblicato ieri e che è uscita oggi in Italia, che dà il Front Nazionale al 24%, l'UMP al 22% e il Partito Socialista intorno al 17-18%. Ora, questo voto. Quindi, la notizia è che il Front Nazionale moltiplica il suo risultato rispetto al 2009, una moltiplicazione per 4. Per 4, che è una moltiplicazione fortissima, ma anche molto di più di quanto aveva avuto il 16%, se non ricordo male, all'ultimo voto. Sì. Sì, ma dobbiamo ricordare comunque il contesto, sarà un contesto di una partecipazione debole, i sondaggisti si accordano a dire che sarà intorno al 40%, quindi parliamo del 24% del Front National tra quelli che votano, quindi sì. Vuol dire che gli elettori del Front National sono più impegnati in questa elezione che i francesi in generale andranno a pescare. Andranno a pescare, però dal punto di vista dell'impatto politico sulla Francia, quel voto, secondo te, secondo voi, il vostro giornale, che conseguenze eserciterà? Allora, è molto difficile di rispondere a questa domanda, perché tutti hanno già un po' previsto questa che sarà la vittoria del Front National, e quindi quel risultato del Partito Socialista o dell'UMP è già stato previsto, quindi non ci sarà una grande sorpresa. Poi il Partito Socialista francese, che è al potere, ha anche subito una sconfitta grandissima due mesi fa e quindi ne ha già tranne le conseguenze cambiando il primo ministro, quindi non ci sarà una crisi politica come quella che minaccia di far nascere in Italia Beppe Grillo, per esempio, dicendo io l'indomani del voto vado al Quirinale e chiedo che il governo cambia. Qui a Parigi non c'è un Quirinale, c'è un presidente eletto dai francesi che sarà ancora lì all'indomani delle elezioni europee, quindi per lui non cambia granché. La cosa che cambia molto è il Front National, che si prepara comunque per l'elezione presidenziale del 2017, ma è tutta un'altra storia, perché dobbiamo anche ricordare che in Francia i voti che si fanno alla proporzionale, come quella degli europei, sono molto rari, quindi è l'unico, quasi l'unico voto che si fa su questo sistema. Il modello abituale è quello del doppio turno, quindi il Front National in un sistema come quello del doppio turno è molto disavvantaggiato rispetto agli altri partiti. Ma secondo te, di fronte a un'affermazione di queste proporzioni del fronte nazionale, resta per l'UMP poi in vista delle presidenziali la linea tradizionale, che era quella di dire: noi mettiamo comunque un veto all'alleanza col fronte nazionale, non vogliamo i loro voti, non convergiamo contro la sinistra con loro, oppure no? È una domanda che si deve fare adesso alla destra dell'UMP. Perché è vero che fino a oggi, più fa, diciamo che un modo sempre più difficile da mettere in posto, c'è sempre stato questo arco repubblicano, come noi l'abbiamo chiamato, diciamo che le forze democratiche antifascisti, per dirla un modo un po' grossolano, si mettono insieme e fanno in modo che il Front National non può avere eletti, ma questo arco repubblicano non ha funzionato dappertutto. Le ultime amministrative il Front National ha potuto così prendere una decina di città, non tanto importante, ma comunque sono delle vittorie, e questo confine tra la destra classica e la destra e l'estrema destra, un confine che è stato voluto da Chirac, da Juppé, da personalità di grande rilievo, questo confine adesso è molto molto molto fragile, più fragile, mi sembra molto più flebile. Ci saranno dei scambi sempre più visibili tra questi due partiti, perché senza gli elettori del Front National l'UMP non può vincere alcuna elezione, e senza l'UMP il Front National non può vincere neanche un'elezione. Questa è la mia stessa impressione, secondo me si modifica quel limite invalicabile. Ma nei confronti del rapporto tra Parigi e il governo Valls, nato dopo la sconfitta socialista amministrativa, verso Berlino, nel dopovoto, l'affermazione che sta nei sondaggi del Front National, che cosa può voler dire nel rapporto tra Parigi e Berlino dopo, secondo te? Niente, ancora una volta, ho paura che questo rapporto storico tra Parigi e Berlino sia piuttosto una pagina della letteratura politica piuttosto che una cosa reale. Adesso fa piacere ai francesi di parlare dell'asso tra Parigi e Berlino, ma Berlino però non ha bisogno più di un alleato così debole, quindi... È un po' questo anche la crisi dell'idea dell'Europa in Francia, che i francesi hanno creduto nell'Europa finché avevano l'impressione di guidare questo progetto, ma ancora i sondaggi lo dicono, nel 1990 60% dei francesi pensavano che l'Europa era una buona cosa per la Francia, erano piuttosto solo che 59% nel 1994, 43% nel 2004 e adesso sono solo 39% che pensano che l'Europa sia una buona cosa per loro. Quindi questa l'idea dell'Europa si è imbollitata insieme alla visione che la Francia ha di se stessa. Che è una visione appunto di chi non è più alla testa del processo di guida. Che non è più alla guida, all'origine, che non ha più la forza di tirare avanti questo progetto. Allora, paese in crisi e l'idea nazionalitaria che torna. Intanto ringraziamo Filippo Ridei, ci sentiremo con lui dopo il voto per analizzare paese per paese, come ovvio, che cosa succederà alle urne. La la versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta al 16.47. Intanto alcuni sms di ascoltatori alla domanda: che cosa avete visto in televisione tra Grillo, Berlusconi, Renzi, oppure magari altro, che cosa ne pensate? Clelia ci manda un sms che dice: ho sentito Grillo ma mi è parso sfuggire le domande, non mi ha convinto. Poi un altro invece dice: Grillo un comico, meglio un pagliaccio, mi piacerebbe vederlo volare su un aereo con i motori fatti con la stampante in 3D come ha raccontato ieri sera. Altri tono completamente diverso. Io ho visto Grillo, che appoggio pienamente, ci dice un altro ascoltatore. Quello che dice ormai è sotto gli occhi di tutti: siamo stati governati da criminali, è ora di fare una scelta di fondo, come dice lui. Marco che poi invece ci manda un sms da Ferrara: seguito i dibattiti politici da un paio di mesi e ho notato una cosa. Grillo attacca e offende Renzi e Berlusconi, Renzi e Berlusconi attaccano Grillo, ma tra di loro, cioè Renzi e Berlusconi, voglio dire, continua Marco, esiste invece una specie di calma piatta, non una parola. Così, secondo me, fanno il gioco di Grillo, che grida all'inciuso fra i due. Il PD e il PDL si sono scannati per 20 anni e ora sono diventati amici? Ci si chiede Marco. Un altro ascoltatore: d'altronde questa Europa, perché stupirsi della Francia, è un immenso inganno. L'euro ha affamato interi popoli europei, i quali non accetteranno più questa dittatura economica globale. Ecco alcuni dei messaggi arrivati dagli ascoltatori. Spostiamo un secondo la nostra attenzione adesso a Londra, perché come a Parigi avete sentito, Marine Le Pen è in testa nei sondaggi. Nel Regno Unito, analogamente, sia pur con una storia e una caratteristica diversa della formazione politica che è United Kingdom Independent Party, anche lì sono in vantaggio loro rispetto ai conservatori che governano con David Cameron, alleato ai liberal democratici, e ai laburisti. E anche qui c'è da riflettere, e con noi per spiegarci che cosa sta avvenendo e le conseguenze, secondo lui, che ne si determineranno dopo il voto europeo, se così andrà, Leonardo Maisano, che è corrispondente del Sole da Londra, che ringrazio. Grazie Leonardo. Grazie a voi. Allora, anche lì gli ultimi sondaggi che dicono? Gli ultimi sondaggi confermano, come dicevi, che l'UKIP è il partito in testa, seguito a circa 2 o 3 punti percentuale dal partito laburista e una decina di punti in meno dal partito conservatore. Devo dire che il sorpasso UKIP laburista è maturato negli ultimissimi mesi ed è quello che in qualche misura UKIP laburisti, sì, è quello che in qualche misura, diciamo così, preoccupa di più gli eurosostenitori, non gli euroscettici, per un semplice motivo: che se la considerazione di fondo è che se il partito laburista finisce secondo, battuto dall'UKIP, è molto probabile che debba impegnarsi anche lui a fare un referendum su adesione o meno all'Unione Europea, come quello che hanno promesso i conservatori in caso di vittoria. Allora, a questo punto, lo scenario di un futuro referendum dell'adesione britannica all'Unione Europea diventerebbe assolutamente una certezza, perché chiaramente che o conservatori o laburisti vinceranno le prossime elezioni. Al netto di questa considerazione, che è a latere, l'UKIP ha chiaramente immagazzinato il consenso di questi anni di crisi dell'euro e quindi, come dire, di revanche della, c'è una certa Little England, una visione più, come dire, isolazionista, ma che poi affonda le radici anche nella grandeur britannica, del passato colonialismo, eccetera, perché rispolverano tutto questo armamentario. È conservatorismo puro, che ogni tanto, conservatorismo puro nel senso, come dire, più estremo del termine, che ogni tanto finisce anche in razzismo. La polemica degli ultimi giorni sugli ingressi dei rumeni dentro o fuori, Nigel Farage, che è il leader del partito, si è scusato per aver fatto dei commenti che, come dire, indicavano il suo dispiacere ad avere i rumeni come vicini di casa, ha comprato una pagina sul Telegraph per chiarire che non era quello che intendeva, ma poi in realtà nelle successive interviste è ricaduto esattamente nello stesso errore, perché questo poi è quello che vogliono i suoi elettori. Credo che deliberatamente lo faccia, sì. Non perché gli sfuggano queste parole di bocca. Senti, no. Quindi doppio scenario: si vota a settembre in Scozia per l'eventuale separazione e a quel punto, con questa affermazione di Nigel Farage, il referendum diventa anche per, a quel punto, per l'Inghilterra, insomma Regno Unito, se poi resta Regno Unito, non è molto chiaro cosa succede se vincono i secessionisti in Scozia, e a quel punto l'impatto diventa europeo tra le due cose. Sì, certamente, anche perché poi l'ultima, come dire, considerazione dell'impatto dell'UKIP sul voto scozzese è che la vittoria dell'UKIP rafforzerebbe gli indipendentisti scozzesi, che temono, come dire, vengono a temere, come dire, l'irrigidimento e l'uscita addirittura della Gran Bretagna, del Regno Unito, dall'Unione Europea, cosa che gli scozzesi, notoriamente essendo eurofili, comunque molto di più non vogliono. A quel punto, in caso di separazione, tra l'altro, per come sono congegnati i collegi storicamente per il tipo di concentramento del voto, significherebbe che in Inghilterra più Galles, i laburisti non dico che non vincerebbero mai, ma quasi, però, da questo punto di vista. Ah sì, certo, perché se tu togli la Scozia, togli il maggior bacino. Credo che i conservatori abbiano forse un solo deputato, neanche quello eletto in Scozia. Quindi sono completamente ai margini. Questo è un fenomeno che si era innescato ai tempi di Margaret Thatcher, che è andato sempre progressivamente peggiorando. Accentuandosi. Allora, come vedete, in Gran Bretagna potrebbero venire delle conseguenze che riguardano non solo il paese e la sua unità, ma quello, il referendum sulla Scozia, a differenza di quanto Madrid non voglia farlo fare in Catalogna, c'è comunque, ma che riguardano a quel punto la permanenza o meno in Europa di Londra. E attenzione che questo sarebbe un grande combustibile per tutti coloro che negli altri paesi dell'Unione chiedono la stessa cosa. Grillo anche qua chiede un referendum alla fine. Sentiamo alcuni di voi come la pensano rapidamente di come hanno passato la serata ieri. Mario da Trento, cosa hai visto ieri sera? Mario? Ieri sera ho visto Porta a Porta, c'era Beppe Grillo, tutti si scandalizzano che praticamente lo stanno paragonando a Robespierre, ma ancora di grandi teste non ne sono volate via in Italia, però io ho una grande ammirazione per Beppe Grillo, perché sta facendo una rivoluzione grossissima in Italia senza far scorrere sangue. Questo bisogna dargliene merito, perché gli italiani ce n'hanno le palle piene. Okay. Cioè, anche stamattina, girando in macchina, sento che hanno arrestato un altro, adesso non mi ricordo il nome, presidente di una regione lì della Presidente Campania, del Consiglio regionale della Campania, NCD. Bravissimo. È anche presidente di una commissione antimafia. Questa è la cosa gravissima. Cioè, io andrei a prendere anche quei politici che hanno nominato questo personaggio presidente della commissione antimafia e mettere in galera anche loro, perché non è mica possibile che mettiamo dei ladri a Mario, chiarissimo, quindi ti ha convinto. Sentiamo Maurizio da Treviso, ieri sera chi hai visto, che pensi? Buonasera. Ieri sera innanzitutto ho visto Grillo, però voglio dire che io non voto Grillo, voto per il Movimento 5 Stelle, perché se domani Grillo dovesse mancare, il Movimento 5 Stelle non perderebbe un solo voto, a differenza degli altri partiti. Detto questo, sono assolutamente convinto di questo. Sì. Detto questo, devo anche dire che io ho 55 anni, sono 40 anni che ascolto questi politici fare campagna elettorale, e l'unico dato vero, il dato verità, è che il 10% della popolazione italiana possiede più del 50% dell'intera ricchezza. Questo non è un paese democratico. Attenzione, il 47% negli altri grandi paesi avanzati la percentuale è più elevata. Però, insomma, detto questo, rapidissimo, sentiamo ancora Stefano da Milano, però rapido. Ciao Oscar, chi hai visto? Io ho visto Grillo e va bene tutto giusto quello che dice, ma dopo di lui il diluvio, nel senso che tante belle cose.